se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie! And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Il Nazareno è morto da molto tempo, non per colpa nostra ma per colpa di qualcun altro. Forza Italia non accoglierà nessuno di coloro che hanno lasciato Forza Italia tradendo gli elettori e sono andati addirittura a sostenere il governo della sinistra. I saw it through without exemption. Non sono più i comunisti il pericolo principale, e chi è il nemico ma di ci oggi? Sono i 5 Stelle, nulla tenenti, nulla facenti. Along the byway and more, much, much more. I did it. Yeah. Io scommetto il nuovo contratto con lei, Pelé, con lei, italiani, quello che vuole, contratto con Berlusconi. Una pizza va bene? È una pizza, a Napoli sì. Va bene? Sì, sì, ottimo. Sì. Beh, un po', allora, però, un po' di più di una pizza, povero Telesi. Anche con lei vuole scommettere? No, io voglio prima e secondo. Un pranzo completo. Va bene, vediamo la cifra. Una pizza e un pranzo completo. Se Forza Italia, lo dico guardando negli occhi gli italiani che ci ascoltano, non arriverà a superare almeno il 30%. Vabbè, no, dai, guarda qua. Scriva, penso, scriva. Spero che gli italiani, con la campagna elettorale che io farò su tutti i mezzi, no, giornali, no, radio, no, televisione, no, social network, no, arriveranno a capire che ci devono dare il 51%, addirittura. Che con quel 51% noi faremo mi diventare l'Italia un paese finalmente felice. Signori, ecco la versione un po' più giovanile. Signori, voi pensate che l'uomo che ha parlato sappia magari un po' di vecchio, di antico, di vetusto? Invece attaccare! E invece sembra la novità che avanza, il nuovo che avanza. Attaccare! Tutti che tornano da Berlusconi. Attaccare! Oh signori, tutti che tornano da Berlusconi. C'è l'avvocato Nicolò Ghedini, voi dovete immaginarvi allora la villa di Arcore. C'è un ufficetto piccolino in cui entra tutti i giorni alle 6 del mattino l'avvocato Ghedini. Lo salutiamo, magari all'ascolto in questo momento. Buongiorno, avvocato Ghedini. E l'avvocato Ghedini si attacca al telefono e risponde a tutti quelli che, soprattutto senatori, onorevoli, tutti quelli che abbandonano Alfano, Alfano che dicono ci vogliono annientare e vogliono tornare da Berlusconi per candidarsi, ovviamente. La poltrona, la cadrega si chiama nel milanese, la poltrona, la seggiola, il potere. In qualche modo. Çalhanoğlu con il destro! Smettila. Lorenzo Nespoli è da due ore che dice: perché non iniziamo con la trionfale vittoria del Milan sul Bayern Monaco? Siamo grandi, siamo tornati grandissimi, siamo da Champions League, siamo da Scudetto. Cos'è? Ma dai, sì. Torneranno questi tempi, presto torneranno questi tempi in cui vincevamo la Champions League. Dai, sogniamo, signori, tanto è l'ultima settimana di 24 mattino. Forza Berlusconi, attaccare tutti avanti. Sono le 6:32 minuti. Questa è l'ultima settimana di 24 mattino, signori, poi si va in vacanza. Ma è una settimana particolare, eh? Caro Peter Bescapelli in regia, è una settimana particolare. Te ne devi andare. Caro presidente De Luca, guarda, non dirlo due volte o tre volte, eh? Ma si capisce che non è mestiere tuo. Vabbè, anche questa è vera. Signori, a Dubai, ci fa sapere Marco, ci sono splendidi 35 gradi umidi. Mentre piove poco, 27 gradi a Cadriano, poco, Cadriano, Bologna, Mara. Beh, insomma, volevate la pioggia, c'è la siccità, eccola qui la pioggia. Fiumicino, 23 gradi, buongiorno. Mentre a Borgo Virgilio, 23,7 gradi, 77% di umidità. Buon lunedì, Carlo, grazie. C'è un'ascoltatrice straordinaria, Teresa. Noi ti ascoltiamo dalla Luna, ci scrive da Rovere della Luna, Trento. Però non ci dice i gradi. Ah, 15 gradi. Molto bene. E vabbè, signori, il nostro amico da Jeddah, Arabia Saudita, 35 gradi, Luigi, mentre a Fregona, Treviso, temporale in corso. Bene, bene, anche Zaia dice che c'è la siccità. Bene, dai, temporale in corso. Meno male, vedete che a pregare Sant'Antonio è arrivata la pioggia. A Sirolo, 24 gradi, after rain. Eccola qua, la nostra Aurorina. Buongiorno, anche lei va da Berlusconi, signori, eh? Buongiorno, caro Milan, un caro saluto a te, un caro amici, agli amici di Radio 24. Come stai? Ti sei svegliata? Ti stai stiracchiando con Benedetta? No, ho piovuto un ieri qui nella splendida Cantù, ho piovuto un po', siamo a 21 gradi stamattina, ho preso un po' di pioggia ieri sera. Va bene, a dai. Sistemare il giardino, quelle robe lì. Ah, quelle robe lì. Come si cosa dovevi fare ieri in giardino? No, io abito qua vicino alla splendida brughiera di Cantù, venite splendida. A vederla. Ragazzi, frotte di turisti che da Venezia vengono dirottate alla splendida brughiera di Cantù. È una città d'arte, di cultura, splendidamente amministrata dal sindaco Arosio, della Lega. abbiamo questa brughiera che vi consiglio di c'è di tutto. Ma che cavolo succede nella brughiera? Ci sono le more da raccogliere. Ci sono le volpi, i ricci, gli scoiattoli, tanti coniglietti sedi. Poi ci sono i picchi, gli aironi, i falchi, le poiane, le civette, il ghetto. Più e merli, tutto c'è, tutto fagiani, passeri, c'erano anche le passe, c'era di tutto. Oh. venire a fare un giro a Cantù. Va bene, passeri e passere, c'è tutto, certo, a Cantù. Manca niente a Cantù. Manca niente a Cantù. Signori, insieme a Aurora Rossana, fatemi salutare Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it. Buongiorno, ciao direttore. Eccomi. Uno che va a Cantù per i merli, i picchi e le passere, soprattutto. Le si sa. Le poiane. Se lo sente Berlusconi, arriva. Esatto, Berlusconi prende subito la cittadinanza a Cantù, subito cittadinanza onorale. Senti un po', ma l'Edgardo Arosio è ancora in carica? Certo. Qui ma perché? Cioè, non facciamo in fretta queste cose, il TAR contro TAR. Ma che TAR? Allora, ha violato la legge? Via, fuori di ball. Ha violato la legge, invece ha scoperto tante cose. Ma lascia stare, ha scoperto tante cose. Ha fuori tante cose, caro Milan, adesso vedrà. Ma non è decaduto? Ma che è decaduto l'appalto del fratello, mica. No, aspetta un attimo che adesso sistemiamo tutto e partiamo a lavorare. Comunque venite a fare un giro a Cantù. Vabbè, sì, ho capito, ti hanno messo la Proloco di Cantù, abbiamo capito. E poi sì, abbiamo anche i gamberi di fiume. Sai adesso che vanno in Svizzera a vedere questi laghetti? Venite qui che abbiamo, signori, i gamberi di fiume. Sui gamberi di fiume no, non ce la posso fare. Apriamo il barlamento, dai, il famoso piatto risotto ai gamberi di fiume di Cantù. Forza, Angelo Maria Perrino, tieniti forte anche tu, Aurora Lussana, perché questa l'ho letta sul Corriere della Sera. Renzi così dice ai suoi collaboratori: io mi candiderò al Senato, cioè quel Senato che doveva cancellare, doveva denuclearizzare, anzi nuclearizzare, quel Senato che non voleva, quel Senato inutile, quel Senato. Io mi candiderò al Senato. Perrino, sai che c'ha ragione Civati, che ha detto che ha una dissociazione cognitiva. Vabbè, adesso però dirà, visto che io non lo volevo il Senato, ma visto che me l'hanno tenuto, a sto punto occupiamolo, no? Legittimamente, o no? Beh sì, fa parte dei nostri tempi, no? Queste piroette continue, hai visto anche Pisapia, è andato lì, ha detto sono a casa nella festa del PD. Ha abbracciato un po' forte la Boschi, sì, e quelli si sono arrabbiati subito. Sì, Speranza ha detto che è un gesto, una rottura insanabile. Sì, l'abbraccio, però alla Boschi. Tu ti rendi conto? Cioè, tu ti rendi conto che 3 giorni che stiamo a discutere, la politica a sinistra sta a discutere se Pisapia avesse o meno il diritto di abbracciare Maria Elena Boschi. Ma tu ti rendi conto? Cioè, ma voglio dire, l'abbraccio, ma che significa? Ma ci rendiamo conto? Si capisce che questo movimento a sinistra del PD è una roba che appunto anche lì la poltrona, un po' di fuoriusciti, un po' di gente che aveva già il terzo mandato, il quarto, il quinto, e che quindi sarebbe andata a casa, si stanno facendo il loro partitino e Pisapia una foglia di fico, ma adesso l'ha capito anche lui, mi sembra, Giuliano, e quindi di là non viene fuori niente. Ma infatti dice su Repubblica: il PD non è il mio nemico, mi sembra anche abbastanza legittimo. Assolutamente inevitabile, dove vanno se non fanno l'alleanza col PD prima o dopo il voto, ma bisogna passare da lì per forza. Comunque sì, sono tre giorni che l'Italia discute a sinistra dell'abbraccio di Pisapia a Maria Elena Boschi. Poi tu, Aurora, pensa che forza ha la Boschi a mettere in ginocchio tutto questo insieme di gruppi e gruppuscoli per... con un semplice sorriso a Pisapia, incredibile. Ma anche Aurora Lussana, incontrando la Boschi, l'abbraccia. Tu l'abbraccieresti la Boschi? Ma chi è che non l'abbraccerebbe la Boschi? Ma no, ma lascia stare. No, adesso bisogna odiare il nemico, non ho capito. Ma poi sai cosa diceva il Manzoni? Spregio ma non odio. Dai, su, non hai ragione, dai, basta. Quindi cosa fai? L'abbraccio e ne infili un ago al cianuro nel fianco? No. Lei è ancora la donna, simbolo ormai del renzismo. È ovvio che se tu l'abbracci, simbolicamente vai a evocare il periodo del renzismo in Italia. Ma cosa stai dicendo? Ma cioè, l'ha salutata, si sono salutati alla festa dell'unità. No, il potere dei gesti e dei simboli, non voglio. Ma il potere dei gesti, ma mica è Mao Zedong che deve fare che alza il braccio prima della lunga marcia per dare. Ma è un abbraccio di Pisapia. Ma ho capito, ma siamo qui a parlare dei saluti falsi. Ma capisci che l'evocatività di un simbolo, cioè di un abbraccio, no? Quello ci sta, che il Sepia potrebbe essere il nonno della Bosca. Sì. Vedi, ecco. Tutto per non parlare dei debiti del PD. Cioè, ma poi fosse un abbraccio, non so, tra Berlusconi e Renzi. Sì. Ah, vedi, allora c'è l'inciucio. Fosse un abbraccio, che ne so, tra la Salvini e Isoardi, c'è allora il significato, no? Di questi tempi. Perrino, questa mi è venuta così, no? Di questi tempi. Sì. Potrebbe essere significativo. Vedi l'abbraccio significativo, noi lo aspettiamo. Se Berlusconi abbraccia la Boschi, che casino ci sarà. Esatto, se Berlusconi abbraccia la Boschi, un gesto che gli viene naturale al cavaliere. O se Berlusconi abbraccia la Isoardi, cioè capisci che sono tutte questioni che spostano. Vabbè, magari viene intervistato. Hai sentito che adesso andrà ovunque, insomma, e quindi vabbè, insomma, comunque l'abbraccio di Pisapia e Boschi, no? Siamo a questo punto, che dobbiamo fare? In tutto questo, però, adesso, al di là di tutto, abbiamo scherzato su Berlusconi, ma Berlusconi è davvero, perché è diventato di colpo il catalizzatore di tutto, Perrino? Cioè, sta vivendo non una terza giovinezza, una quarta giovinezza, una quinta giovinezza, ma perché? Ma io direi che è quello che è successo in questi anni di Terza Repubblica, una specie di pendolo che è andato a destra e a sinistra. Comunque noi penalizziamo chi governa, e quindi quando governa Berlusconi subito dopo corriamo a votare a sinistra, quando governa a sinistra subito dopo andiamo a governare a destra. Penso a Pisapia, per esempio. Pisapia fu vissuto come un liberatore di Milano ai tempi della Moratti, ti ricordi? Sì, che era un sindaco di centrodestra, una berlusconiana. E quindi non è passata una vita, siamo a pochi anni fa. Ora il pendolo va dall'altra parte. Mi sembra molto irrazionale come politica, ed è il segno di una stasi, di una politica che non cambia, nella quale Berlusconi al centrodestra ha sempre mantenuto, diciamo, le chiavi di casa, e ha atteso, e adesso apre la porta lui e decide chi entra e chi esce. Sì, diciamo che la sensazione è che è un Berlusconi che, come dici tu, sì, no, anche gli italiani sono un po', vedono che chi va al potere non riesce a fare quello che vorrebbero gli italiani venisse fatto, e cioè in 448 sistemare l'Italia, che è un paese irriformabile per le tante burocrazie, le tante collusioni, le tante pastoie, no? Secondo me, irriformabile. E quindi dopo un po' ognuno si scotta, va al potere, vede che vorrebbe cambiare, e gli italiani poi lo puniscono. Si votano turandosi il naso, diciamo che vincerà il centrodestra a suo malgrado, ecco. Vincerà il centrodestra su Magada. Sì, sì, sì, tu sorridi, Aurora. Intanto. Ma è vero, una bella analisi. Io ti dico, umanamente credo che Berlusconi sia il nostro Highlander, perché insomma lui evoca il berlusconismo che c'è in ogni italiano. Ma che vi fotte la leadership. Salvini, al Salvini. Lascialo lì. Non va mai sottovalutato Berlusca. Però io ti dico che fra un giovane quarantenne e tante che va in giro dalla mattina alla sera come Salvini e questo, ripeto, un simbolo importante come il Berlusca, che evoca il berlusconismo che c'è in tutti noi, sì. E la gente c'ha voglia di gente un po' operativa. Gente un po' operativa. Il Salvini. Il problema di Salvini è che non ha truppe al sud, quindi non può proporsi come un leader nazionale. Io gli voglio bene, Matteo. Ha scritto per Affari Italiani, l'ho visto nascere politicamente. Mancini Padani. Esatto. Cos'è che scriveva? Rubrica... Cos'è che scriveva? Magari scriveva su Affari Italiani una rubrica che io chiamai Arancini Padani, appunto. Padani. Magari l'ha scritta anche Aurora Lussana. No, magari, non so. Gli ho cucito questa rubrica addosso quando scoprì alla Camera che gli onorevoli mangiavano tanti arancini belli caldi che arrivavano dall'ascensore interno e non pagavano. Sì, i supplì. Ma allora da lì quella roba qui, ma scusate, alla buvette devi mostrare lo scontrino, quindi paghi, io ho sempre pagato. Invece lì gli onorevoli mangiavano e non pagavano. Allora l'arancino era diventato il simbolo dell'abuso della casta e Matteo faceva delle rubriche carinissime. Dico che Matteo non ha curato una crescita nazionale, Bossi gliel'ha anche impedita, contestata, mentre lui aveva puntato su uno sviluppo al sud, e oggi si trova con una diciamo un'incompiuta che gli preclude la via di Palazzo Chigi, temo. Sì, si trova a dover sperare in Berlusconi. Tra l'altro anche Berlusconi fa questo errore quando dice speriamo di ottenere il 51%. Ragazzi, ma la matematica, quello che dice il 51% vorrebbe dire il 50% più un voto, che non è il 51%, porcaccia la miseria, lo sa anche l'Edgardo Arogio, che adesso decadrà, però insomma ha vinto. No, mi piacerebbe. Mi ha detto, traduco anche per l'amico Irzak albanese che ci ascolta da Santeramo. Ma e lui ha parlato di Cadrega. La Cadrega, però ho detto la sedia, la Cadrega. La Bergamo e Scagna. La Scagna. Ma quando la morte, non la sai il dialetto, che quando la merda la monta in Scagna o la spussa la fa da... Vabbè, lasciamo stare. Questa non la traduco, andiamo al traffico, va. Dai Milan, intanto che sei lì che decidi quando farti l'altra settimana in ferie, manda il traffico, va. Traffico! Ferie. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Siamo 60 milioni in Italia, lasciateli pure andare in Portogallo i pensionati, ciao! Milan, ancora con queste stupidaggini, ma per piacere, io ti stimo tantissimo, il Daily Mail equivale al giornale dei signorini. A Milan, invece di dire temperatura la mattina, di dove vanno a finire i soldi dei bolli delle auto, le strade sono groviere sono. How well everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird. Bird is a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird. Confermo ai chiacchieroni, ai fanfaroni, che sono felicemente e serenamente insieme a Elisa, che come tante coppie viviamo gioie e viviamo problemi, che risolviamo parlando fra di noi e non sulle pagine dei giornali, e quindi mettetevi l'anima in pace, siamo felicemente insieme, punto. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni. Come ogni coppia ci possono essere dei problemi che superiamo se ci vogliamo bene come ci vogliamo bene. E quindi un ciaone a tutti i giornaloni da spiaggia che stanno scrivendo le peggio cose. Capito? Sempre. Capito, Perrino? Questa non l'avevo sentita. Il ciaone, sì, è di due giorni fa. Insomma, la prima e unica dichiarazione pubblica di Salvini. Però, sempre con quel tono, siamo felici, insieme, allegri. No, allegri no, che poi dopo Perrino dice che vincono il settimo scudetto consecutivo. Siamo contenti, insieme, ciaone a tutti. Cara Aurora, però dai, questa domanda te la devo fare. Da donna che segue la politica e anche da fedele al tuo capo negli anni perenni, insomma, il tuo capo Salvini, non Berlusconi, stavo dicendo Salvini, non ti sbagliare. Che cosa hai provato nel vedere queste immagini di Salvini? Dell'Elisa Ibiza con la... quell'avvocato di, romano. Eh sì, di Elisa che bacia. Mi è venuto maniera... lo sciopone. Ti è venuto lo sciopone, di la verità. È un dice, po' Dio, sì. Dio, il leader ha bisogno adesso delle coccole. Un po' sì. No, non nel senso che allora, sono una bella coppia, pensavo sì. Che insomma... Evidentemente, come spiega Salvini, magari c'è stato un momento così di difficoltà nella coppia, speriamo che la superino questa fase qui, eccola sì. Che torni. In un... Cioè per il bene della Lega, ecco. Proprio per il bene della Lega unita, della Lega. No, anche perché se Salvini diventa premier, eccola, no, ci serve, sì. Eccola. Che vada tutto bene anche nella vita privata, no? Sì. Però, se Salvini diventa premier, non so, Perino, non ti sembrava come quella se mia nonna aveva il trolley? sembravano quelle frasi, se mia nonna avesse il trolley sarebbe un dramma. Con tutto l'affetto che ho per Matteo, per i motivi che ho detto prima, non temo che non possa farcela diventare premier. Pochi perché arancini. La Lega è rimasta un partito del nord. Pochi arancini. Che questa... non è una cosa così brutta. Esatto, che è quel sogno, il sogno recondito di Lussana, premier della Padania che si ferma sotto la Lombardia. Che potrebbe annettersi alla Svizzera, diventare un nuovo cantone svizzera, ma portiamo anche il Veneto perché se lo sbocco al mare è sempre utile. Lombardo Veneto. Se no andare a fare le vacanze sull'Adda, andare a vacanze sul non so, sul... Io trovo comunque la dichiarazione di Salvini sorprendente, nel senso che uno si aspetterebbe una risposta da macio, no? Certe cose non si fanno, è finito il rapporto, non posso tollerare. E invece è una risposta dolce, saggia, realistica, nella direzione di un Salvini più popolare, più semplice, più umano, come abbiamo scritto su Affari interpellando dei semiologi. Più umano, insomma. Sì. Cioè, nel senso abbiamo un po' superato il celodurismo, esatto. È stato superato il celodurismo di boss. Da un po', questo sì. Vabbè, insomma, questo è. Signori, io non lo so se vi scandalizzi, oggi Libero lo chiama tra l'altro il signor Ferilli, in maniera un po' sprezzante, è Cattaneo che uscirà da Telecom, come ha raccontato il giornale nel weekend. Sì, non lo so se va a Mediaset, non lo so. Comunque, Cattaneo che lascia Telecom e c'è, come in tutti questi casi, la polemica sulla buona uscita che risulta. Libero dice 40 milioni, Cattaneo dice non sono neanche 30 e poi su Repubblica dice non trovo nulla di disdicevole e vergognoso, ho risanato l'azienda. 30 zucche, Cara Aurora, tu cosa faresti con 30 milioni? Lo diceva già Lenin, la potenza del capitale è tutto. Eccola lì, Lenin. Non so se Cattaneo si ispira a Lenin. A leninista. Non lo so. No, che tra l'altro l'azienda sul libro cosa dice? Che è tutto regolare, che il contratto è tutto regolare. Sicuramente, sono quei contratti che si stipulano per i manager che hanno poi magari come buona uscita 5 anni di stipendio piuttosto che no, e qui si arriva a queste cifre. Ha battuto Donnarumma, sicuramente. No, però i manager prendono di più dei calciatori, questa è la novità. Abbiamo i manager, soprattutto i manager pubblici più pagati, lo dice l'OCSE, più pagati in Europa. Solo in Australia i manager pubblici sono più pagati che da noi. Solo in Australia. Questo non lo dico io, non lo dice Perdino, non lo dice Russano, lo dicono i numeri, le statistiche. Però vabbè. Non è un cliente Telecom, quindi. Vabbè, ma chi se ne frega di questo? A parte la questione dei denari di Cattaneo, la cosa importante è che anche la Telecom passa in mani straniere con l'uscita di Cattaneo. Sì, con Bolloré. Beh, vabbè, lì ci sarà la solita partita sull'italianità. Gentiloni vuole rassicurazioni. D'altronde, dire Telecom vuol dire anche tutta la rete, vuol dire anche, parliamoci chiaro, vuol dire anche i servizi segreti, dai, intercettazioni, materiale sensibile. Non è che possiamo darlo agli stranieri così senza farci. In Cattaneo l'hanno fatto fuori i francesi, si sanno. Quindi sì, ho capito. Ma tu, Perrino, sui 30 milioni invece non ti Non hai questa invidia sociale? Un investimento su Affari Italiani e magari mi comprerei il Sole 24 Ore, non so. Cioè, così faresti un investimento su Affari Italiani, chissà sì, perché. Sì, farei un'offerta per Radio 24, ma naturalmente con dentro Alessandro Milan. Beh, ovvio, ovvio. Ecco, sì, allora, sì, se fa così, direi che la buona uscita mi sta bene. E ne avevate anche 45, 50. Perfetto. Vincolati. E Carolina la aggreghiamo come editorialista. Lista principe. Carolina chi? Aurorina. Carolina Lussana, la mia fatta Aurora Lussana. Vabbè, dai, allora è il momento del premio Giachetti, signori, è il momento del premio Giachetti. Anche so no. Che siete caldi. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Signori, è il premio Giachetti, ogni giorno si può dare un premio Giachetti, non è che questo è. Cara Aurora, a chi diamo il premio Giachetti? A chi dai il premio Giachetti? Oh, stamattina sono impreparata. Dallo, il premio Giachetti. Ma dallo anche, non so, vuoi darlo al tuo vicino di casa, al panettiere? No, cioè, guarda no, che non è mica, mica lo devi dare. Ma figurarsi, oh, guarda, non lo so, ci sarà un sindaco del PD, un sindaco del PD in zona a cui dare. Ah, non so chi lo do. Sì, che ho letto ieri, alla Boldrini. Ha perso grande novità. Dai, smetti. No, la Boldrini, dai. Tutte le volte gira no, e rigira. La prima volta, non la presidenta Boldrini. Va bene, sì, va bene. Sì. Tu Perrino, premio Giachetti. Ma io lo darei ad Alfano che eccolo, nonostante come gli ricordò Renzi abbia fatto il ministro di tutto, della giustizia, degli interni, ora degli esteri, continua a perdere pezzi, ma dice di avere un futuro radioso e nessuno ci crede. Sì, per la verità l'ultima dichiarazione è ci vogliono annientare, forse si è reso conto che... Sì, resterà lui da solo e quindi queste dichiarazioni sono un po' così, insomma, lasciano il tempo che trovano, deve preoccuparsi di un seggio in Parlamento anche lui. Eh sì, tutti in Parlamento, anche Renzi forse si candida al Parlamento, si candida anche Perrino, si candida la Lussana, tutto per la Cadrega, oppure com'è a Bergamo la Scagna. La Scagna. Va bene, dai, alla prossima, un abbraccio. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7:14 minuti, questa è l'ultima settimana di 24 mattino, prima delle vacanze e dunque anche l'ultima settimana di rassegna stampa per quel che mi riguarda in questo spazio. Siamo pronti a scoprire che cosa ci offrono i giornali oggi in edicola? Andiamo! Adesso Alessandro Milan vi leggerà il giornale. Dai, pronti? Sentiamo cosa è successo oggi, dai! Andiamo Milan, andiamo, dai! Lunedì 24 luglio, allora, i titoli, intanto le aperture dei quotidiani, il Sole 24 Ore apre su cartelle, volontari e liti, 3 sanatorie per 9 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina, ultima settimana per pagare la prima o unica rata sui ruoli. Poi la siccità per il Corriere della Sera, siccità mezza Italia in crisi, per il Messaggero siccità 10 regioni in emergenza. Il giornale, chi ci guadagna con la sete, i furbetti dell'acqua. A Roma, Acea da 381 milioni a soci e comune, ma non ripara i tubi. Repubblica invece ha la politica in primo piano. Pisapia, PD non è il mio nemico. Divisi si può solo perdere. La Stampa invece ha un titolo sulle banche italiane, troppi azionisti ignoti. Il Fatto Quotidiano, debiti referendari, il PD deve ancora 7,7 milioni ai fornitori. Mentre a proposito di soldi, Libero si concentra sulla scandalosa liquidazione a Flavio Cattaneo, amministratore delegato di TIM. La TIM non si vergogna dei 40 milioni a Cattaneo. Ci arriveremo. Intanto l'Italia secco, questo è il titolo di Repubblica, pagina 6. Mi sembra incredibile questa situazione per cui siamo sommersi dall'acqua, ricoperti dall'acqua, circondati dall'acqua. Giustamente un ascoltatore mi scrive siamo circondati ovunque dal mare, non abbiamo fatto un impianto di desalinizzazione per l'agricoltura e abbiamo fatto pure l'Expo sul tema, cioè tutta l'Expo, ricordate, il cibo, il futuro, eccetera. E ci troviamo con 10 regioni che chiedono lo stato di calamità, 7 l'hanno già fatto e 3 lo faranno, perché l'Italia è a secco. E adesso si dirà le piogge, no, guardate le piogge, no, guardate l'Istat, è più semplice, le piogge, l'Istat. Voi dite, che c'entra l'Istat? L'Istat, come ricorda Libero a pagina 8, il 40% dell'acqua che scorre lungo i nostri acquedotti si perde durante il tragitto per la scarsa manutenzione, i buchi, gli allacci abusivi, eccetera, e non arriva al rubinetto, capito? Il 40%, 4 litri d'acqua su 10, quasi la metà. E poi di che stiamo a discutere? Della siccità, il cambiamento climatico, certo piove meno di prima, e se prima si perdeva l'acqua ma c'era grande abbondanza, adesso non c'è grande abbondanza e quindi bisogna imparare a non buttare via il 40% d'acqua. I dati sono dell'Istat, le perdite più ingenti sono a Potenza. Cittadini di Potenza, avete qualche problema con l'acqua? Sappiate che il 68,8% della vostra acqua si perde negli acquedotti per problemi, scarsa manutenzione, il 70%. Campobasso 68%, a Cagliari, Sardegna, avete qualche problema? Beh, in genere in Sardegna qualche problema d'acqua c'è. 59,3% di acqua che si perde nei tubi. A Roma vengono sprecati 44 litri su 100, capito? A Roma, dove c'è il razionamento adesso, dicono che c'è l'emergenza, litigheranno, prendere l'acqua dal lago di Bracciano, no, non si deve prendere dall'acqua di Bracciano. Risultato, 44 litri su 100 si perdono per la scarsa manutenzione. Ecco perché restiamo senza acqua, banalmente. Poi adesso partiranno i dibattitoni. Però il problema è questo. L'Italia a secco. Repubblica, pagina 6. Sono 7 le regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza per la siccità perdurante. Altre 3 si dicono pronte a farlo. L'emergenza è per l'eccezionale avversità atmosferica. 2/3 dei campi del paese, d'altronde, sono con l'acqua razionata. Lo Stato speciale lo ha chiesto 3 volte nell'ultimo mese il Veneto, quindi il Friuli, la Sardegna, la Campania, la Basilicata, la Toscana. In Emilia-Romagna la dichiarazione riguarda le province di Parma e Piacenza. La Regione Lazio lo ipotizza per Roma. La Coldiretti spinge per la richiesta di un vero e proprio stato di calamità. A Roma potrebbe scattare il razionamento idrico, anche se il governatore Zingaretti sta facendo di tutto per evitarlo. Misure per limitare il consumo sono previste anche in 12 comuni del Bresciano. Rubinetti chiusi di notte nella Sabina Romana, in Campania, Quarto e Pozzuoli. Parma e Piacenza sono razionate da tempo. Eppure c'è una dispersione d'acqua di 9 miliardi di litri ogni giorno lungo i 474.000 chilometri che partono dagli acquedotti, come ha segnalato il Verde Bonelli. E vabbè, e quindi ci ritroveremo, come titolo a pagina 3, il Messaggero, l'agosto senza cocomero, la frutta estiva che è già finita, i prodotti sono maturati troppo presto, crollano i prezzi pagati ai coltivatori, ovviamente ai consumatori nessuno sconto, anzi costa sempre tutto di più. In tutto, sul Giorno parla il ministro Galletti. Il titolo: emergenza siccità in 10 regioni, Galletti, usino i soldi già stanziati. L'intervista di Alessandro Farrugia. La situazione oggi a Roma è molto critica, dice il ministro, perché negli scorsi anni non si sono fatti gli investimenti necessari. Così va dritto al punto il ministro dell'Ambiente Galletti, annuncia un tentativo di moral suasion tra regione e comune per evitare che si vada a uno scontro nel quale sarebbero i cittadini romani a pagare il prezzo. Convocherò per l'ennesima volta mercoledì l'osservatorio permanente sull'Appennino centrale per approfondire la crisi idrica e tentare una mediazione tra Regione e Acea Comune di Roma. Faremo tutto il possibile. Noi come Ministero abbiamo solo funzioni di coordinamento. Già da mesi ho messo in campo osservatori permanenti sull'acqua e fino ad ora a livello nazionale abbiamo evitato il peggio. La situazione di Roma è oggi quella che preoccupa di più, ammette Galletti. Continui prelievi dal lago di Bracciano e dal bacino del Pertusillo rischiano di mettere a repentaglio la salvaguardia della biodiversità dei due laghi. E l'ordinanza del presidente Zingaretti è quindi assolutamente comprensibile. Ma, ministro, è accettabile che l'Italia razioni l'acqua nella sua capitale? Mi sono imposto in momenti di crisi di evitare polemiche. Chiedo a tutti di fare uno sforzo straordinario. Roma ha problemi evidenti a partire dalle consistenti e intollerabili perdite della rete. Lo scorso inverno ho dato alle regioni oltre 250 milioni per la riduzione delle perdite, 21 dei quali per la regione Lazio, ed è chiaro che bisogna intervenire oggi in maniera forte in questo settore, utilizzando queste altre risorse e allo stesso tempo avviare il potenziamento della rete di captazione, penso al raddoppio dell'acquedotto del Peschiera. Ma anche Galletti dice soldi buttati via, nel senso che ci sono purtroppo tante tante perdite. Oh, comunque è estate, lo si capisce da questo, lo si capisce dal fatto che manchi un po' l'acqua, ma è estate, lo si capisce dai giornali, perché è tornato l'orso. Ogni estate c'è l'orso in Trentino, lo schema è il solito: uno che dice di essere stato ferito da un orso e quindi parte la caccia all'orso e partono le polemiche. Tra due giorni lo schema sarà: va abbattuto, no, non va abbattuto, animalisti contro antianimalisti, orsisti contro antiorsisti. Lo schema è classico, ogni estate, anche quest'estate, abbiamo il nostro orso da difendere, da catturare, da abbattere, a seconda delle posizioni. Eccolo qui, quell'orso voleva uccidermi, a salvarmi è stato il cane, il racconto dell'uomo ferito sabato a Trento, il quarto episodio in 3 anni, è partita dunque la caccia all'orso KJ2 che tiene in scacco l'Italia garantista. Questo è un pezzo di Repubblica. Il racconto dell'uomo, leggo da Repubblica pagina 19, Andrea Selva, passeggiava lungo una stradina forestale insieme al cane quando ha sentito un rumore alle spalle come di un animale che galoppa. Si è voltato e l'ha visto. C'era un orso. Si è alzato in piedi sulle zampe posteriori. Era più alto di me. Son caduto a terra e mi ha colpito con una zampata. Poi mi ha trascinato a terra finché Kirka, il cane, l'ha distratto ringhiandogli contro. Io sono riuscito a mettermi in salvo in una scarpata. Ho avuto paura. Quell'orso voleva uccidermi. Non hai idea di cosa può fare una bestia del genere. Questo è il racconto di Angelo Metlikovec, idraulico, 69 anni, ricoverato a Trento, disteso su un letto del reparto di ortopedia, con le gambe e un braccio martoriati da un orso. Secondo la provincia di Trento le sue condizioni non sono gravi, ma lui non è d'accordo. E nemmeno sua moglie e i due figli che l'hanno raggiunto in corsia. E da qui, da questo racconto, ecco che parte una di sfida. Orso uomo. Anche la stampa dedica una pagina a questo. Il mio incontro con un orso, son vivo per miracolo. E adesso che fare? E c'è la nostra Carla Rocchi, intervistata, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Promettono di spostare gli animali, poi arriva il via libera ai cacciatori. Non vorremmo che tra le righe si tendesse a riaprire la caccia all'orso. Mentre il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, dice: la gente ha paura, dobbiamo assolutamente riuscire a catturarlo. È estate, signori, è partita la disfida sull'orso. In tutto questo, che sia estate, lo si capisce anche per i bambini che sono al mare, i bambini a volte che sono in città, purtroppo molti sono e rimangono nelle grandi città. Oggi Nadia Ferrigo sulla stampa fa un'inchiesta, inizia in prima pagina, poi continua a pagina 10 e 11. L'inchiesta ha questo titolo: un bimbo su tre passa l'estate senza vacanze. Primo giorno di scuola, tema: come hai trascorso le vacanze estive? Svolgimento davanti alla TV. In Italia un bambino su tre non sa cosa voglia dire passare una settimana lontano da casa. La coda lunga della crisi picchia sui piccoli, quasi uno su tre è a rischio povertà ed esclusione sociale. Significa non poter contare su cure mediche e un'alimentazione adeguata e non essere nelle condizioni di seguire un percorso scolastico e di formazione regolare. Altro che vacanze, un lusso per il 65% dei bambini del Sud Italia e per il 35% dei bambini del Nord Italia. Per la metà delle famiglie che non può permettersi di lasciare la città, la difficoltà sta nel far quadrare i conti tutti i giorni, figuriamoci gli extra. E allora che succede? Beh, i più gettonati sono gli oratori. Gli oratori, le parrocchie, che diventano ogni estate una vera forma di welfare alternativo per molti, è inutile negare, è così, anche perché i prezzi delle parrocchie sono molto calmierati, con 50 euro magari si lascia il bambino tutta la settimana in oratorio. Voi capite che rispetto a babysitter, animatori, anche le gite o le settimane fuori con il comune, che magari costano meno rispetto ai prezzi di mercato ma costano comunque, ecco, gli oratori diventano il rifugio. E infatti 2 milioni di ragazzini vengono accolti negli oratori durante l'estate. Comunque è interessante questa inchiesta della Stampa, Nadia Ferrigo, pagina 10-11. Estate in città, niente vacanze per un bambino su tre. Ci sono tanti dati e magari voi vi ci rispecchiate, visto che siete in una di queste situazioni, se leggerete. In tutto questo ci sono due articoli che si sono contesi la palma del premio Mani sul Volante oggi per l'articolo che mi fa pizzare della giornata. Parto con il primo: Cassarotta non fa lo scontrino ma registra l'incasso, multato lo stesso. Succede a Milano. Cristina Bassi racconta: un salumiere di zona San Siro lo scorso 7 marzo viene visitato dalle Fiamme Gialle, dunque la Guardia di Finanza, perché notano una persona che esce con delle fettine di pollo e altri alimenti per un totale di 27 euro, lo fermano e il signore non ha lo scontrino, al che la Guardia di Finanza entra e va subito dal macellaio a dire: «Ah, lei non ha emesso lo scontrino!» E il macellaio dice: «È vero, ho la cassa rotta, ma ho riportato tutto nel registro apposito, una procedura prevista per legge», come dice l'avvocato difensore, l'avvocato Bianco. «Nei casi in cui il misuratore fiscale ha un problema, l'annotazione nel registro sostituisce lo scontrino e ha valore fiscale». E il macellaio effettivamente ha fatto così. Per cui la Guardia di Finanza, andando via, registrando tutto, l'ha tranquillizzato dicendo: «Tranquillo, è tutto a posto, non arriverà la multa». Risultato: 675 euro e 42 centesimi di multa tra sanzione vera e propria, IVA e spesa di notifica. E la beffa in tutto questo, dice l'avvocato difensore, è l'aspetto assurdo, è che al cliente conviene pagare, anche se ha ragione, perché se dovesse fare ricorso, il ricorso gli verrebbe a costare almeno 800 euro per il solo primo grado. Se poi consideriamo che in primo grado le sentenze sono in 7 casi su 10 favorevoli al fisco, per cui bisogna andare in secondo grado, eccetera, costa di più. E allora tanto vale stare cornuto, mazziato e pagare 675 euro e 42 centesimi per questo salumiere. Ma ecco l'altro articolo, quello che stravince la palma dell'articolo che mi fa pinzare della giornata, è questo. Federica Seneghini segnala sul Corriere la disavventura di una coppia, due ragazzi omosessuali che volevano fare una prenotazione, andare in un bed and breakfast a Vibo Valentia. Scrivono a questo bed and breakfast, lo trovano e ricevono però una risposta di questo tipo: «Grazie per aver prenotato, è il primo anno che affittiamo». E la dependenza, vabbè, a parte questa, è nuova, finita a maggio. «Mi scuso se posso sembrare troglodita, ma non accettiamo animali e gay». Questo il titolare del Bed and Breakfast. «Mi perdoni ancora, coppia costretta a disdire la prenotazione. Non rinunciamo alla Calabria, vorremmo addirittura sposarci lì. Eccola la storia Vibo Valencia del bed and breakfast che non accetta animali e gay. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, lo Stephen King dell'informazione sinistra. Lo Stephen King dell'informazione sinistra. Che roba arzigogolata, complicata. Dovremmo fare una riunione di redazione alle 10:30 per capire esattamente il significato di questa sigla. Va bene, però ti ringraziamo, caro ascoltatore. Magari se la mandate via WhatsApp con gli audio, dovete schiacciare, sapete, con quel tastino tut, che poi mandate gli audio, invece di mandarli alla suocera, all'amante, alla... No, mandateli a noi queste sigle con un audio migliore, anche perché è l'ultima settimana di 24 mattino, fate in fretta, se no non lo so. Allora, la politica, dobbiamo parlare della politica. C'è un Berlusconi, ormai l'avete capito che è in gran polvere, un Berlusconi che è rivitalizzato, un Berlusconi che tra l'altro, come dire, ha aperto la porta ad Arcore e visto questa fiumana di senatori, deputati, tutti che si accalcano, vogliamo venire da te, tornare da te, perché è un po' questa la scena. Tanto che Tommaso Ciriaco racconta su Repubblica il gran lavoro dell'avvocato Nicolò Ghedini, che un tempo soprattutto aveva lavoro per i tanti processi a Berlusconi, e invece ora il senatore Ghedini, come dire, ha proprio un ufficio nella dimora di Berlusconi ad Arcore e racconta così Repubblica. Ore 6 a Villa San Martino dormono tutti come un monaco e senza far rumore Nicolò Ghedini gira la chiave del suo nuovo studio. Una cella spartana ricavata nella Disneyland berlusconiana di Arcore e si attacca al telefono. Mi chiamano tutti, confida agli amici, vogliono rientrare, vogliono soprattutto garantirsi la rielezione. Eccolo il nuovo coordinatore di fatto di Forza Italia. Nicolò, ci pensi tu? Gli ha chiesto Berlusconi. Faccio tutto, presidente, ma senza galloni, non voglio rovinarmi la vita. Ed ecco allora che insieme all'ex ministro Enrico Costa l'avvocato Ghedini si è inventato la gamba centrista degli azzurri e per un principio newtoniano gli onorevoli senza futuro cadono dall'albero e lui è lì pronto a raccogliere. D'altronde dice non sottovalutate il principio di autoconservazione dei parlamentari. Straordinario, sembra un principio della fisica e invece è l'attaccamento con la colla culo alla poltrona, no? L'attaccamento culo alla poltrona da parte dei parlamentari che non vogliono assolutamente perdere questa condizione, vedono un Alfano in difficoltà, per esempio, e quindi vogliono subito manifestare questo amore per Berlusconi, non ti abbiamo mai lasciato, in fondo torniamo da te, vogliono essere rieletti. Giusto, vogliono avere un posto in lista in alto per mantenere il culo attaccato alla poltrona. Con Gianni Letta governa tutto, Ghedini, partito e aziende, relazioni e candidature del domani. Il cavaliere non è un cliente, ormai è un amico, anche se per scherzo preferisce chiamare il penalista il mio confessore. E il suo confessore, Ghedini, ora si è dato la missione di conquistare centristi, soprattutto quelli che avevano tradito per Angelino Alfano. Avvocato è il coro di queste ore, riportaci a casa. Lui ascolta. Non promette nulla di troppo concreto, mica faccio scouting, ripete in privato, mica sono Verdini. D'altronde, come scrive Repubblica, del rasto Scala non ha la chioma, non ha la stazza, il talento per la lusinga, non è neanche simpaticissimo a pelle. Di lui però si fidano, perché promette poco e dispensa parecchi no anche a costo di allontanare i transfughi. Eccola qui allora, avvocato, riportaci a casa, la nuova missione di Ghedini, regista dalla stanzetta di Arcore. Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 5, racconta il tentativo, il lavorio di Berlusconi di portarsi a casa i vari senatori. In tutto questo, dall'altra parte, il PD, racconta Tommaso Labate, a pagina 8, 100 deputati in meno se si votasse oggi, la guerra su listini e deroghe. Tommaso Labate racconta sul Corriere della Sera: se tutto va bene siamo rovinati. Questa è la cantilena più gettonata nella sala macchine del PD. E perché? Perché se il PD riuscisse a raggiungere la quota 28%, quindi a stare più alto dello score che gli viene attribuito oggi, porterebbe alla Camera al massimo 180 deputati, più di 100 in meno rispetto agli effettivi del mastodontico esercito dei 297 eletti che entrarono a Montecitorio nel 2013 grazie a un premio di maggioranza che fece di quel gruppo parlamentare il secondo più robusto della storia repubblicana, secondo solo alla Democrazia Cristiana del 48. Ora invece si perderanno dei voti, e tra l'altro nelle pieghe di questo articolo c'è la vera notizia, secondo me, perché Renzi dice ai suoi collaboratori: io mi candiderò al Senato. E io l'ho letto e ho detto: ma come? Quel Senato che lo stesso Renzi voleva abolire, nuclearizzare, trasformare, diciamolo così, in 100 senatori non eletti, non... io mi candiderò al Senato. Cioè, suona molto come dire: io lo volevo togliere, ma gli italiani hanno bocciato questa riforma, allora sapete che faccio? Mi ci candido. Boh, non lo so. Mi suonava un po' strana. Come mi suona non strana, mi suona surreale, lunare, il dibattito che c'è da 3 giorni perché Pisapia ha abbracciato Maria Elena Boschi. Ora, Peter Bescapè, se tu incontrassi il ministro Boschi, ti porresti il problema politicamente di come la pensi, o, avendone l'occasione e salutandola, l'abbracceresti? Questo abbraccio ha dato uno scandalo, interpretazione, il linguaggio del corpo. Certo, perché io non capisco. Cioè, oggi Giuliano Pisapia rilascia un'intervista a Repubblica, intervistato da Giovanna Casadio, a pagina 13: il PD non è il mio nemico. La polemica sull'abbraccio della Boschi la trovo assurda, irreale, vergognosamente strumentale. Ho salutato, abbracciato centinaia di persone, sorriso in non so quante foto. I frequentatori del web le troveranno facilmente. Io non sono mai stato ambiguo, ma sempre chiaro e coerente. Campo progressista è nato con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un nuovo centrosinistra, o chiamatelo sinistra-centro, con cultura di governo europeista, radicalmente in discontinuità con le politiche degli ultimi anni. Il popolo del PD non sarà mai mio nemico, ma con l'attuale PD che si ritiene autosufficiente a un sistema elettorale proporzionale alle elezioni, è evidente, ci sarà competizione. Dunque Pisapia che dice: una polemica inutile, l'abbraccio con Maria Elena Boschi. Ma sentite per esempio Pasquino, ideologo della sinistra: peggio dell'abbraccio alla Boschi sono la sua faccia e il sorriso, il body language, cioè il linguaggio del corpo di una politica da evitare. Ma io dico, ma non si può, secondo me, non essere d'accordo con alcune delle parole che scrive oggi in prima sul giornale il direttore Alessandro Sallusti. Ai comunisti non piacciono gli abbracci, apriti cielo. I compagni fuoriusciti dal PD che lo stavano incoronando leader della sinistra antirenziana hanno tirato il freno a mano dopo l'abbraccio alla Boschi. Uno che abbraccia la Boschi non può essere il nostro capo, fermi tutti. E su questo è in corso un ampio e approfondito dibattito in stile soviet, con tanto di richieste al povero fedifrago di chiarimenti e scuse ufficiali. Detto che fuori di metafore, senza voler irritare la Boldrini con tesi maschiliste, la Boschi la vorrebbe abbracciare 2/3 degli italiani di sinistra, centro e anche di destra, e detto che per una volta nella vita il grigio Pisapia ha fatto qualcosa di umano e simpatico per cui invidiarlo, questa surreale polemica dimostra con che gente ha avuto a che fare il povero Renzi. Vietato sorridere al nemico, anche se è una signora. L'odio al posto della galanteria, il disprezzo che deve farsi fisicità, la politica che deve diventare fatto personale. Questi sono pazzi pericolosi, lo sono sempre stati, oltre che di una stupidità che li ricopre di ridicolo. Queste le parole anche dure di Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Per dire, io tutti i giorni quando incontro Mauro Meazza lo abbraccio, non per questo sono interista, no? Si sa. Mauro, buongiorno. Ma buongiorno, ma abbracciamoci volentieri. Abbracciamoci anche forte. Divisi ovviamente dalla fede calcistica, ognuno resterà della sua idea, ma per carità, perché non abbracciarci? Perché no? Abbracciamoci anche, direi, con degli endecasillabi a questo punto, essendo lunedì. Anche se è il tuo ultimo lunedì, no? Poi te ne vai in ferie. E vado in ferie. Bighellone, sì. Caro. L'ultimo martedì. Caro il mio fannullone, allora vado a declamarti gli endecasillabi ultimi prima delle tue immeritate vacanze. Sì, sa. Potrei parlarti delle sanatorie, ovvero del calendario ballerino che non puoi annoverar tra le vittorie del fisco sibizzoso e birichino. O verseggiar potrei con ardimento sugli albi e il DDL concorrenza che dopo tanto tempo in Parlamento forse concluderà la sua esperienza. O rinnovar potrei l'invito caro a far tesoro sempre dell'esperto che in questo tempo di coerenze raro ritrovi al lunedì dentro l'inserto. Ma tutto questo, Alino, sta sul sole e leggerlo saprai con piglio tosto. Mentre l'ascoltatore saper vuole che ne sarà di noi passato agosto. Ancor ci ammonirai che carta costa e ci dirai cosa ti fa ingrassare, ovver l'appuntamento tuo si sposta e ad altri toccherà presto levare? Cosa ne sarà allor del tuo poeta che al lunedì si fa endecasillabico? Sciogli quest'incertezza che inquieta l'Italia tutta, che ora attende il traffico! Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Alessandro Milan, il Bayern München dell'informazione. Vabbè, battuto in amichevole, per carità, 4-0 con doppietta della nuova stella del futuro Cutrone. Ma chi è Cutrone? Vabbè, ha fatto due gol per il Milan. Allora, signori, torniamo alle notizie a bomba, come si suol dire, torniamo alle notizie importanti. C'è un'intervista sul Corriere della Sera a Marco Carrai. Marco Carrai, amico di Renzi, esperto di cyber security. Ricordate anche la polemica quando era stato sul punto di essere nominato a capo dell'unità di cyber security Palazzo Chigi. Intervenendo alla Versiliana, Marco Carrai sabato ha detto: la mia squadra oggi è già in grado di hackerare un pacemaker. Che, messa così, è una frase che assume una certa dose di inquietudine. Ecco allora che il Corriere della Sera va a intervistare Marco Carrai a partire da questo con Giuseppe Alberto Falci a pagina 11. Dottor Carrai ha detto così perché avrebbe voluto essere a capo dell'unità a Palazzo Chigi? No, guardi, all'epoca il governo mi chiese se fossi disponibile, dissi di sì, ma poi non se ne fece più nulla per il polverone di polemiche. Io non do la colpa a Renzi. Sì, ma ha detto che senza la sua nomina ha perso l'Italia. Non ho detto così, ma che non mi sento uno sconfitto. Di certo la polemica sul mio nome almeno è servita per far sollevare il problema e che è necessario un coordinamento serio sulla cyber security. Renzi e i suoi collaboratori lo avevano capito molto bene e prima di tanti altri nel mondo, e il governo Gentiloni con il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio ha continuato su questa giusta strada. Il mio conflitto di interessi è il minore della storia della Repubblica Italiana. E poi avevo già chiesto ai miei legali di fare un trust e dimettermi da tutte le cariche sociali con conseguente diminuzione delle mie entrate economiche. Sono nato nella città di Lapira, il quale diceva: nulla decidere, nulla rifiutare. Naturalmente, aggiungo io, di cose lecite. E vabbè, Carrai, dunque, il caso nomina, la cybersicurezza possa creare cellulari e pacemaker, torna sulla mancata nomina sul Corriere della Sera, pagina 11. Invece, per quel che riguarda l'economia, c'è sicuramente, sono giorni importanti per quel che riguarda Telecom, perché la fuoriuscita della DD Telecom Flavio Cattaneo è una uscita che è stata ormai sancita nelle ultime 48 ore, nel senso che ora si è ai passaggi formali, ma ormai è chiaro. E Repubblica, che ha tirato fuori questa storia, a pagina 9, racconta Telecom, il governo, rete nazionale, rete interesse nazionale, perché il cambio al vertice di Telecom Italia, voluto dal principale azionista Vivendi, agita le acque dentro e fuori il gruppo. Oggi si riunirà il comitato remunerazioni, dovrà prendere atto della separazione consensuale tra l'amministratore delegato Cattaneo e la società, dovrà anche stabilire l'esatta entità della super liquidazione, Poi il CDA dovrà deliberare sull'uscita del manager, motivandola. È proprio qui che si registra il dibattito più acceso. I 5 consiglieri delle minoranze non si accontenteranno delle spiegazioni date finora. Potrebbero sollevare questioni anche sulla buona uscita di Cattaneo, che è valutata tra i 25 e i 30 milioni di euro. Vivendi, controllata dal finanziere francese Vincent Bolloré, ha la maggioranza in CDA. Però il retroscena pubblicato da Repubblica, nel quale si parlava di contatti tra Bolloré e Palazzo Chigi, delle garanzie offerte dal finanziere francese sulla partita della rete in fibra e dell'obiettivo del governo di avere una rete neutrale con parità di accesso per tutti i concorrenti, ha suscitato reazioni forti, col sottosegretario delle comunicazioni Giacomelli che conferma la posizione del governo è che è stato un errore aver privatizzato la rete Telecom e che 20 anni dopo il risultato è che l'Italia è tra gli ultimi paesi europei per la qualità della rete, nonostante l'enorme quantità di soldi pubblici spesi come contributo a fondo perduto. Tra l'altro c'è in tutto questo anche la polemica immancabile quando un grande manager se ne va sulla liquidazione. Si è detto 25/30 milioni, Libero la pone a 40 milioni e mette come titolo di prima pagina la team non si vergogna dei 40 milioni a Cattaneo, perché c'è una lettera di Ivan Dompé, direttore della comunicazione istituzionale di Team, a cui risponde Vittorio Feltri, direttore editoriale del quotidiano Libero, in cui c'è questo faccia a faccia sulla immoralità, secondo Vittorio Feltri, di questa cifra, e invece Ivan Dompé, direttore di comunicazione istituzionale di Team, difende insomma il ruolo, intanto il lavoro di Cattaneo, che scrive Dompé: in soli 15 mesi con la sua gestione ha portato a Team oltre 1 miliardo di euro di margine operativo lordo aggiuntivo rispetto al piano industriale. Dopo 10 anni sia il fatturato che il margine operativo lordo stesso di Team sono tornati a crescere. Riguardo a questa liquidazione, o super liquidazione meglio dire, che verrà stabilita oggi, Francesco Manacorda racconta su Repubblica: c'è anche la posizione dello stesso Cattaneo, per la verità filtrata, uno sfogo agli amici. La cifra che mi verrà attribuita non ha nulla di scandaloso né di disdicevole. Ho la coscienza assolutamente a posto. Così Flavio Cattaneo dice agli amici: il mio obiettivo in Telecom era migliorare alcuni parametri e sono stati migliorati, in molti casi anche in anticipo rispetto alle scadenze previste. E i 30 milioni di euro saranno di meno, assicura lui a chi gli è vicino. Comunque sono tanti, ma ripeto, dice Cattaneo, nulla di disdicevole. Libero, in maniera anche un po' così non carina, lo definisce il signor Ferilli. Invece di chiamarlo insomma amministratore delegato Cattaneo. In tutto questo, riguardo all'economia, vi segnalo più che l'economia anche la legge: le truffe agli anziani, arresto obbligatorio se la vittima è over 65. Stefania Piras racconta sul Messaggero che oggi, o meglio questa settimana, si discuterà in Parlamento di che cosa? Dell'arresto obbligatorio per chi truffa un anziano. È la principale novità normativa. Attualmente l'arresto in flagranza di reato è facoltativo, invece se si fanno truffe agli anziani, truffe odiose, l'arresto, si sta discutendo questo, deve diventare obbligatorio. L'obiettivo è colpire con durezza chi si approfitta degli anziani, chi con scuse banali riesce a derubarli, chi li mortifica con modi affabili mentre sfrutta la loro solitudine e tradisce senza scrupoli la loro fiducia bonaria. Dunque si sta discutendo alla Camera il varo di aggravanti e pene più severe, tra cui l'arresto obbligatorio se si truffa un anziano. Ecco, poi viene messa la soglia over ai 65 anni. Sento già i 65enni o 66 anni, ma io non mi sento anziano, mi trattano d'anziano, se io li sistemo. Ragazzi, però, ragazzi, ecco, vi chiamo così, ragazze e ragazzi, 65 anni. Bisognerà mettere, se si stabilisce questo tipo di problema e di aggravante, una soglia va messa per legge. Perché sennò come si definisce anziano? Non si può stabilire caso per caso. L'unica soglia che può essere a garanzia di tutti è l'età. Quindi se vi sentite derubricati ad anziani a 65 anni mentre fate 4 ore di nuoto, 3 ore di tennis, 5 ore di lavoro, 7 ore di arrampicata e non vi sentite anziani, non prendetela personalmente, non prendetela, no, così, diciamo, è la legge, è la legge. Va bene, mi sono un po' accalorato. Mancano 20 secondi e io volevo leggere tante altre cose. Come facciamo? Leggo solo la carta costa, articolo più inutile che sta sui giornali. Siamo qui con Luca Sommi in pagina 16 del Fatto Quotidiano. C'è una tre quarti di pagina bella buona dedicata agli uomini e alle loro sopracciglia. Chi se le fa a ali di gabbiano? Strette, sottili, risibili, uomo che ti ritocchi le sopracciglia, tu metti in crisi il mio liberalismo. Luca Sommi, tre quarti di pagina, le sopracciglia e gli uomini. Ma chi se ne frega!